La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, qua in diretta dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta. Vi ricorda sempre il nuovo appuntamento che avremo da sabato, per chi vorrà, tutti i sabati in diretta, cominciare dal 1° di novembre, da questo sabato dalle 10 alle 12, con me è un nuovo, si fa per dire esordiente, ma che insomma su Radio 24 lo è, che Carlo Alberto Carnevale Maffei, Conti della Belva dalle 10 alle 12 da questo sabato. Molte sorprese, non troverete la replica estesa di questo programma, tutta un'altra cosa. E da domani sul sito I Conti della Belva troverete anche i temi di cui parliamo, per decidere se intervenire, come, insomma, tra i social, per telefono e così via. Ma andiamo all'argomento del giorno. L'argomento del giorno è una trasmissione, per così dire, di servizio, perché si tratta di tentare di capire come sia possibile uno dei divari interpretativi più netti che ci sia a proposito di una posta particolare della legge di stabilità, che però ha un impatto diretto nella vita di noi tutti, perché noi tutti viviamo in un comune, in ogni comune c'è un sindaco. E che cosa succede? Succede che la legge di stabilità presentata dal governo, se ricordate, chiedeva un contributo di riduzione di spesa agli enti locali, insomma bello pesantocchio per così dire, perché erano 6 miliardi di cui 4 alle regioni e la parte restante tra comuni 1,2 miliardi e province, le province che oggi sono trasformate in enti di secondo livello. Per le regioni abbiamo seguito la cosa come è andata, protesta dei presidenti di regione, apertura di un tavolo e così via. Ieri è stata la volta dei comuni dell'ANCI e il punto da tentare di capire, che voglio dire è di una certa rilevanza, è come sia possibile che il governo dice da una parte e ribadisce: noi chiediamo 1,2 miliardi ai comuni, anzi chiediamo quasi niente perché ai comuni gli allentiamo il patto di stabilità. Il governo poi si dimentica di dire che in realtà anticipa già con il DEF del 30 settembre la correzione verso l'azzeramento del deficit per i comuni dal 2016 al 2015, e questo è un altro paio di maniche. Però rispetto a quello che dice il governo, i comuni ieri si sono presentati all'incontro con il governo e hanno detto: no, guardate, i conti non tornano proprio, perché voi dite 1,2 miliardi, anzi meno, visto che ci aprite le maglie un pochino del patto di stabilità per i comuni più virtuosi, ma i nostri conti invece dicono che voi ci state chiedendo 3,7 miliardi. Allora, siccome 3,7 miliardi è il 300% di 1,2, voi capite bene che non è proprio così secondario, ecco, se su una posta della legge di bilancio ci sia una variazione di interpretazione così contrastante. L'incontro ieri si è chiuso comunque con l'impegno di un approfondimento tecnico, cioè il governo ha detto: noi rimaniamo alla nostra idea, però cerchiamo di capire che perché voi dite 3,7 miliardi. Allora, siccome la cosa ha un certo impatto, perché altrimenti finisce che poi aumentano ulteriormente le addizionali locali, si tagliano servizi e così via, abbiamo chiesto oggi a un componente della delegazione dell'ANCI, che ieri era a Palazzo Chigi, quindi testimone diretto, di spiegarci come diavolo sia possibile, come si arriva a 3,7 miliardi, se sia vero così, e come è possibile che il governo dica 1,2 miliardi. Non si tratta di fare polemica, si tratta di spiegare e capire. Io devo dire la verità, da quello che ho letto anche oggi sui giornali, pur avendo una certa dimestichezza, non ho capito fino in fondo. Allora, l'ospite di oggi, lo avevamo sentito su un altro tema poche settimane fa, è il sindaco di Pesaro, vicepresidente del PD, quindi non è neanche sospettabile di avere un problema politico con il governo, ma qui si tratta di merito, cioè Matteo Ricci. Buon pomeriggio e grazie sindaco. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ci spiega innanzitutto come fate il calcolo in ANCI per cui il governo vi sta chiedendo 3,7 miliardi e non 1,2, anzi meno? Ma intanto bisogna capire che i comuni fanno la spending review da ormai 10 anni, soprattutto gli ultimi 7 non c'è stata legge di stabilità che non ha tagliato ai comuni, e quindi non è il primo anno che questo avviene, e chi conosce i comuni, conosce le macchine amministrative, sa che da tagliare è rimasto veramente nulla. Dall'altra, i comuni sono la parte terminale dello Stato, per cui tutto arriva ai comuni, e quindi non solo il taglio diretto di 1,2 miliardi, al quale si aggiungono 300 milioni già previsti dal DL 66 dei mesi scorsi, e quindi 1,5 miliardi, ma anche quindi intanto il governo dice 1,2 miliardi con la legge di stabilità, ma si dimentica che nel 2015 c'erano già 300 milioni di tagli già disposti. Esatto, okay. Quindi siamo a 1,5 miliardi. A 1,5 miliardi di partenza. In più, che cosa succede? Che è vero che c'è un allentamento del patto di stabilità, e questo è un grande risultato. Il tutto però rischia di essere compromesso dalla armonizzazione fiscale che tutti i bilanci dovranno fare, e ha dell'introduzione. Cioè, spieghiamolo, mentre per decenni abbiamo proceduto con bilanci redatti secondo criteri non omogenei, ed era una follia perché non li rendeva neanche ben comparabili, dopo anni di studio e di soluzioni tecniche avanzate, eccetera, si anticipa all'anno prossimo il fatto che debbano essere redatti secondo principi omogenei, è così? Esatto. E a questo si aggiunge la necessità di introdurre un fondo per i crediti di dubbia esigibilità, sì, che per molti comuni sostanzialmente va a annullare l'effetto positivo che l'allentamento del patto ha, in alcuni casi va addirittura a dare un risultato negativo. Qui le faccio una domanda, sempre per capire chi è a casa. Per capire. Ma se redigendo i bilanci con criteri finalmente omologhi, uguali per tutti, emergono crediti inesigibili, cioè in altre parole emergono degli attivi, per così dire, che sono stati tenuti in bilancio per anni con disinvoltura perché andavano levati, è la cosa di cui spessissimo abbiamo parlato a proposito dei miliardi di crediti inesigibili di Regione Sicilia, ma quello è un macro problema. Ma se emerge questo per i comuni, perché pensare che l'emergere di crediti inesigibili, cioè di falsi attivi, in altre parole, configura una richiesta di più tagli ai comuni? Ma perché per alcuni comuni, ad esempio, le multe non riscosse rischiano di dover andare tutti in questo fondo, gli oneri di urbanizzazione non ancora riscossi rischiano di dover andare tutti in questo fondo. Ma era meglio ottenere i bilanci falsi? No, non è un bilancio falso, perché comunque sono crediti che magari necessitano di tempo per essere riscossi, e quindi metterli tutti in un'unica annualità rischia di far saltare i bilanci di alcuni comuni, mentre invece avere un fondo di crediti di dubbia esigibilità spalmabile negli anni, cioè permettendo ai comuni di rientrare dei crediti che vantano, è a mio parere una mediazione saggia che potremo fare nelle prossime ore. Oh, e la stima di questa parte di spesa aggiuntiva che voi proponete di spalmare, e invece con le direttive attuali si concentrerebbe tutto nel 2015, cioè la stima di falsi attivi patrimoniali, a quanto è? Adesso non mi ricordo bene la cifra precisa, non ce l'ho sotto, ma ci sono delle stime fra l'altro diverse. Uno dei motivi per cui si è riunito un tavolo tecnico, che il MEF, il Ministero dell'Economia, e l'ANCI hanno stime molto diverse, sì, di valori, e quindi anche per questo c'è da fare un lavoro di comparazione tecnica, sì, dei dati. E dopodiché c'è il problema delle province, cioè le province così collassano addosso ai comuni. Tant'è che ieri i presidenti di provincia, che adesso sono tutti sindaci, sostanzialmente hanno detto: o ci mettete in condizioni di gestire le funzioni essenziali, o altrimenti, se avete deciso di chiuderle, le chiudete voi, Stato. E quindi questa è stata un po' la presa di posizione. Da questo punto di vista, al presidente Renzi. Quindi voi dite: quei 700-800 milioni chiesti alle province, le province a cui rimanevano però i 7 milioni. Le province sono 1 miliardo di taglio. Sì, ha ragione. Dentro, fra l'altro, ci sono anche le città metropolitane alle quali vengono assegnate più funzioni. Più funzioni. Quindi qui c'è già un problema anche di merito rispetto alle funzioni assegnate. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto che sulle province ci sarà un'accelerazione, cioè lui ritiene che dal 1 gennaio le province debbano svolgere solo la funzione che riguardano le strade e le scuole, che bisogna garantire le risorse per queste due funzioni, che tutte le altre funzioni se ne devono occupare le regioni, questo è quello che è stato detto, sì, e che il personale delle province in eccesso dovrebbe passare gradualmente a alcune servizi dello Stato, in particolar modo ai tribunali, che dal 2015 hanno in previsione delle assunzioni anche abbastanza. Perché nel frattempo importanti. Però dal 1 gennaio lo Stato, con questo governo, ha riconosciuto che le spese per i servizi della giustizia e i palazzi della giustizia, che prima erano i comuni, non sono più nei vostri bilanci dall'anno prossimo. In verità verità li riconosce per lo Stato, anche questo è un grande risultato, ma dal 1 ottobre, e quindi andrebbero ad incidere soltanto per pochi mesi nel 2015. Sono tutte cose delle quali ieri abbiamo discusso, che sembrano piccole cose, ma però quindi, comuni sono grandi per ricapitolare a chi non a 3 miliardi e 7 ci arriviamo, perché al 1,2 miliardi chiesto formalmente in legge di stabilità si aggiungono i 300 milioni già disposti in precedenza, ma che comunque sono meno spesa. Dopodiché il rischio è che l'entità dei tagli alle province si aggiunga a quel miliardo, ricada sui comuni. Dopodiché c'è il problema dei, diciamo, attivi di bilancio da cancellare, che significa doverci mettere soldi, ovviamente, quindi meno spesa disponibile per la spesa corrente nel 2015 per i nuovi criteri contabili. La somma di queste quattro cose più il punto interrogativo della finanza delle città metropolitane, secondo voi fa 3 miliardi e 7, corretto? No, manca un punto, che è quello che, sul quale ieri abbiamo chiesto al governo un impegno preciso. Siccome noi sappiamo come funzionano le regioni, e siccome ai 4 miliardi di tagli di regioni le regioni hanno detto, e il governo ha ribadito, che non si deve tagliare la sanità, o meglio i servizi, si devono tagliare i centri di costo, i costi standard, tutta quella storia lì va benissimo, e che non si devono alzare le tasse, perché mi sembra allucinante che il governo fa un'operazione per diminuire le tasse e poi altri enti le aumentano. Bravo. E il rischio però qual è? Che di quei 4 miliardi, diversi di questi, noi stimiamo almeno un terzo di quelle risorse, possano diventare minori trasferimenti dalle regioni ai comuni su trasporto pubblico locale e in particolar modo servizi sociali, welfare e politiche culturali. E quindi ricadono a quel punto sulle vostre. E quindi ribadisco il concetto iniziale: i comuni sono la parte terminale dello Stato, tutto arriva lì. E quindi se non si fa un conto complessivo si rischia di chiedere ai comuni un sacrificio di 1,2 miliardi, che già di per sé sarebbe gravoso perché negli ultimi 10 anni sono gli unici che hanno pagato, ma in verità la cifra complessiva non è quella, ma ricaduta cifra molto più grande. Allora le faccio un'altra domanda, però la risposta me la dà dopo i 60 secondi di informazione stradale. Siccome sia l'incontro del governo con le regioni, sia quello di ieri con voi, ha visto la delegazione delle regioni e la vostra ieri dell'ANCI dire al governo: però noi ovviamente siamo per correggere, ma a parità di saldo, come si fa a questo punto a dare comunque i 6 miliardi che chiede il governo, visto quello che hanno già detto le regioni e che voi avete aggiunto e che lei ha sintetizzato oggi? Ecco, come si fa a garantire la parità di saldo i 6 miliardi? La mia opinione, ma questo conta poco, è che io avrei messo in legge di stabilità un intervento non così, una cifra buttata lì. Io avrei quantificato quanto e come si può fare, per esempio, sulle partecipate locali dei comuni e delle regioni, è tutto scritto da aprile, perché Cottarelli aveva già scritto i provvedimenti, come e quanto fare delle decine di miliardi di euro sia ancora in sanità. In sanità sono ancora 38 miliardi, ma sia anche del totale degli acquisti, non complessivi, ma c'è una quota ancora rilevante fatta dall'autonomia fuori da meccanismi digitali centralizzati e trasparenti. Secondo me, lo diceva Cottarelli, che aveva già scritto le misure, di 6 miliardi ne saltavano fuori persino di più, senza buttarli sul tavolo così. Ma questa è la mia opinione. Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, come si fa a garantire quello che avete chiesto anche voi al governo, avete convenuto, cioè la parità di saldo, viste tutte le eccezioni che ci ha illustrato? L'equilibrio da trovare è molto complicato, ce ne rendiamo conto, però siccome noi condividiamo lo spirito della riforma, della legge, che è quella di creare sviluppo, dare una spinta a questo paese, quindi capiamo le difficoltà del governo, però il governo deve capire le nostre. Io penso che i punti sui quali si può trovare una mediazione sono sostanzialmente tre. Il primo è quello di fare in modo che le regioni non scarichino il taglio sugli enti locali. Questo è un punto per me fondamentale, perché significa non aumentare notevolmente le cifre di taglio che noi sono state fatte. Il secondo punto riguarda... Quindi che il governo vi garantisca un tetto, che non vi cada qualche cosa sulla testa dall'alto. Noi chiediamo che il governo chieda alle regioni, così come gli ha chiesto di non aumentare le tasse, gli chieda di non trasferire sui comuni il sacrificio che viene chiesto alle regioni, perché altrimenti è un gioco e questa è la prima cosa. Che alla fine la seconda? Questa è la prima questione. La seconda, secondo me, è quella che dicevo prima, cioè fare in modo che questo fondo sui crediti sia spalmato nel tempo. Ok, questo secondo me questo si può tecnicamente fare. La terza? Il terzo aspetto riguarda il patto di stabilità, perché sì, se noi avessimo un ulteriore allargamento del patto di stabilità, se non altro nella parte degli investimenti, potremmo avere dei benefici maggiori rispetto a quelli che oggi abbiamo. Ecco, questi mi sembrano realisticamente. Adesso io le faccio una domanda da parte del diavolo cattivo, per così dire, perché ieri ho visto che però all'atere dell'incontro il Presidente del Consiglio ha rilanciato l'idea nel 2015, anche se in legge di stabilità non c'è, però la sua idea è quella di intervenire comunque per un'ipotesi di unificazione, semplificazione della somma delle diverse imposte sugli immobili, che insomma per i comuni sono fondamentali. Lui la chiama adesso la local tax, insomma stiamo parlando della somma della parte residua dell'IMU più TASI più TARI, di cui vedremo alla fine qual è l'incasso finale in questo 2014. Ho fatto una scommessa, saranno almeno 28 miliardi. La mia, pagavamo meno di 10 miliardi fino a 4 anni fa. Però detto questo, io temo che voi troviate la quadra con un accordo su una imposta immobiliare che è il pilastro per i comuni, semplificata sì, ma con un tetto ulteriormente più alto. Mi sbaglio? Si sbaglia, perché in questo caso non rientra nella discussione sulla legge di stabilità, è una discussione che si farà successivamente. Quindi e se vi dice che tra due mesi questa è la soluzione, voi accettate o rifiutate? Noi sicuramente siamo disponibili ad una soluzione di semplificazione, perché avere un'unica imposta che i comuni gestiscono è una cosa molto più chiara, più trasparente, più semplice per i comuni, ma soprattutto per i cittadini. No, che ma il problema è che se cresce ulteriormente il prelievo dei cittadini. Dobbiamo essere molto chiari, cioè deve essere una semplificazione che non modifica gli importi né in aumento né in calo, secondo me questo deve essere l'accordo che dovremo fare. Dopodiché io sono molto d'accordo se il governo, noi siamo, credo tutti noi, quasi tutti noi, molto d'accordo sul fatto che va spinto invece una semplificazione sulle partecipate, perché è evidente che noi abbiamo una... Che però in legge stabilità c'è solo quell'ultimo articolo, no, che in realtà un'altra cosa che ieri il Presidente del Consiglio ha ripreso è proprio questa, cioè un impegno a lavorare su questa, noi abbiamo detto di sì, così come io sono molto d'accordo ad una legge che incentivi maggiormente le unioni dei comuni e le fusioni dei comuni. E questo ce l'aveva, ci aveva detto addirittura quelle tra le giù. Come sa, io sono per mettere insieme le regioni più piccole, ecco, noi siamo molto riformisti e vogliamo, accettiamo l'idea che bisogna cambiare questo paese, noi siamo i primi a volersi mettere a disposizione, vogliamo però evitare che in un momento di bisogni crescenti tutto ricada di nuovo sui comuni, il che significa sui servizi essenziali e su azioni che invece di dare una mano alla ripresa rischiano di produrre un effetto recessivo. Perché lei lo sa com'è per le regioni, com'è andata, cioè, giustamente anche loro si lamentano molto, e poi però per esempio l'addizionale IRPEF è passata a 4 anni dallo 0,9% a 3,3%, che insomma sono aumenti di imposizione locale bastevoli a uccidere una persona sana, figuriamoci il cadavere che è oramai il contribuente italiano. Comunque grazie al sindaco di Pesaro, speriamo che voi a casa abbiate capito, vedremo naturalmente come andrà a fine nel tempo questo accordo o non accordo tra enti locali e governo. Intanto continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.